ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Quinta puntata. Sèvres, nei pressi di Parigi. La bimba ha 2 o 3 anni. Un abbraccio improvviso, cocente. Un chiacchiericcio infantile. Non la do a nessuno, la mia mamma. E se mi lascerai, io andrò proprio nello stesso posto e starò con te lo stesso. È dunque un misterioso telegrafo senza fili che le ha comunicato i miei pensieri. Abbandonarla di nuovo e tornare in Russia per continuare la lotta? No, non ti abbandonerò. Non passerò sul corpo della mia bambina. Porterò a termine questo mio compito, ma è così difficile. Il terrorismo mi ha separato dalla vita con un muro ottuso e trasparente insieme. Solo un grande amore può abbattere questo muro. Ci vuole molta forza per tornare a vivere la vita quotidiana, calda, umana. La nonna mi scrive: Dio non impone all'uomo un gioco più pesante di quello che può sopportare. E mi tornano alla mente parole sue dei giorni lontani dell'infanzia. Se il tuo gioco è tanto grande, sappi che tanto grande è la tua forza. Eccomi, lo porterò, sarò capace di amare. La bimba ha già 5 anni. Alcuni compagni che mi sono amici mi hanno invitato a passare l'estate in Italia. La sera si accendono luci, perle dorate lungo la spiaggia, che vanno a riflettersi nello specchio d'acqua. In cielo brillano le stelle, la loro luce si specchia tremula nel mare. Cos'è più grande, mammina mia? Un mondo o una quantità di mondi? Non ha ancora chiaro il significato della parola quantità. Una quantità di mondi. Allora ti voglio bene una quantità di mondi, con tutte le città e i mari, con i boschi, i monti e le valli, con tutte le case, le finestre e le luci, col cielo e con tutte le stelle, anche con quelle che stanno dentro il mare. Così, mammina? Così, piccola gioia. Il povero Settimio a scrivere non si era mai applicato per difetto di intelletto e soprattutto, così sembrava, di volontà. Angelo e Lello e poi Alfonsa avevano impiegato con lui tempo e fatica perché imparasse almeno la firma, ma niente. Lui si infuriava ed era una girandola di lapi spezzati, di pennini spuntati con violenza per non rischiare di lasciare traccia di sé sul foglio, per non farsi rubare l'anima. Per quella paura di ereditarietà di cui non parlavano mai e da cui mai riuscivano a sentirsi salvi, Alfonso e Lello con i figli le prime prove di scrittura le avevano fatte presto. Poi il gran proliferare di giornalini, diari, lettere e bigliettini li tranquillizzò, almeno su questo punto. Finito il tempo breve degli errori di ortografia da correggere, Alfonso delle parole dei suoi figli sembrava non avere curiosità e le leggeva soltanto se richiesta esplicitamente. A nulla valeva che Enzo lasciasse in giro a bella posta riflessioni sui suoi turbamenti e persino sugli inventari di abiti o giochi lei lasciava scivolare il suo sguardo miope, togliendosi gli occhiali per pulirli ogni volta che un segno tracciato su carta, per qualche ragione, si affacciava non preannunciato e motivato alla sua vita. Per questo forse fin dagli inizi i suoi figli scrissero proclami diretti alle folle, editti destinati a sguardi esterni, e tutto, o in ogni modo tanto, conservarono, perché ai posteri non fossero concesse dimenticanze. Preoccupati della traccia che avrebbero lasciato, inconsapevoli a lungo del riannodarsi di una tradizione ancestrale, si garantirono con la scrittura la sopravvivenza. Si affidarono alla carta per capire e farsi intendere, per rendere leggibile, dunque accettabile, ogni cosa. le fantasie dell'infanzia come le sofferenze ancora inconsapevoli. Assalti, agguati e battaglie, il gioco della compravendita, i matrimoni. All'inizio fu come tante altre volte, schieramenti contrapposti e poi la pace. Le bambine che lamentandosi di estromissioni si chiudevano in rifiuti sdegnosi. La lotta fra partiti, ininterrottamente fatti e disfatti, le ripicche di gruppo e di ciascuno. Fu poi d'inverno, quando con la pioggia cominciò la produzione quotidiana di giornali, con i giuramenti e i verbali delle sedute, e poi vennero le guide della città, trasfigurata nei nomi di piazze, strade e viali, e i cataloghi di musei inventati, e la zecca stampò monete e francobolli. Fu insomma quando i ragazzi cominciarono a pensare uno Stato che i grandi si accorsero che qualcosa stava accadendo. Il gioco dei regni era, già nel nome che aveva, un progetto e una prova. Gli adulti furono chiamati a sostenere con lapis, inchiostro e risme di carta le uscite dei giornali, i più prestigiosi dei quali venivano stampati con il ciclostile ad alcol. Aderirono volentieri, affascinati da una smania di invenzione e di mutamento che stupiva perfino in quei ragazzi così particolari, così più grandi della loro età. Pellegrino da Pisa mandò addirittura dei denari e una clessidra con la sabbia azzurra per scandire il tempo dei discorsi, in modo che fosse data a tutti l'opportunità di parlare. Via via il gioco si complicò, le alleanze si cementarono in scambi e mescolanze di cognomi e le lotte politiche sfociavano in zuffe furibonde che Alfonsa si preoccupava di sedare ma che Ermelinda seguiva invece con attenzione vigile, in cerca fra quei nipoti di qualcuno che potesse diventare, con gli aiuti opportuni, l'eletto. Enrico per primo fu quello su cui le parve di potersi impegnare. Lo fece con generosità, senza risparmiarsi né risparmiarlo. Forse Enrico di essere un capo non aveva voglia o non se la sentiva, ma quando udì sua madre che parlando di lui, senza scherno, diceva «il mio re», non corse il rischio di deluderla. I regni ebbero ministri, banchieri, giudici, orari dei negozi e delle attività, scanditi al minuto dalla clessidra di Pellegrino. E uno storiografo, Enzo, che scrisse e riscrisse in rime e in prosa la storia dei regni. Vi accluse materiali originali e facsimile, disquisì sulle fonti, si esercitò nei modi diversi di interpretare gli eventi e raccontarli. Ma fu poi Mimmo, che all'inizio del gioco aveva partecipato firmando i giuramenti con la croce perché ancora non sapeva scrivere, a salvare foglietti sparsi, giornali, deliberazioni e organigrammi dagli sfacelli di traslochi dolorosi, dalle persecuzioni non familiari né bonarie, dalla guerra. Appoggiati su di un tavolo dal ripiano sciupato, molti oggetti diversi: un cappello, una candela, due libri, un mestolo di legno, un orsacchiotto, una foglia d'insalata. Xeniuszka è seduta sulle ginocchia di sua madre, che le indica via via gli oggetti da definire. «Questo di che colore è?» chiede Xenia e indica un libro. «Rosso!» risponde subito la bimba e batte le mani applaudendosi. Un'esitazione misteriosa perché la lezione resti gioco. Poi indica con il dito la candela. «Questa? Bianca!» dice Xeniuszka e per contentezza si assesta meglio in braccio a sua madre. «Adesso dimmi di che colore è questa!» «Verde!» risponde Xeniuszka con minore entusiasmo, perché l'insalata non le piace e sa che fra poco dovrà mangiarla. «E questo?» dice Xenia porgendo il mestolo alla bambina che lo usa per tamboreggiare sul tavolo. «Marrone!» «Bravissima!» «E questo?» Xeniuszka guarda l'orsacchiotto Mishka seduto proprio di fronte a lei sul tavolo. Esita, sta per rispondere, lo guarda ancora, poi finalmente si decide. «Marrone!» Ma non è convinta. «Marrone, va bene, ma marrone come? La bimba è disorientata. La fierezza di poco fa scompare di fronte a quel nuovo esame per il quale non trova risposte. Marrone, marrone, dice, e non ha più voglia di farlo quel gioco. Marrone chiaro, cioè avana, dice Xenia con pazienza. Il marrone ha tanti toni, tante sfumature. È importante distinguerli. La bimba si muove, vorrebbe scendere, ma Xenia la trattiene. Le mostra il ripiano del tavolo, le venature, le chiazze del legno, i cerchi lasciati dalle bottiglie del vino e le scoloriture. Per ogni cosa il suo nome, la sua sfumatura. Marrone scuro, dorato, marrone paglierino, cuoio, marrone bruciato. Xeniuska fissa il punto scuro indicato per ultimo da sua madre, lo fissa a lungo. Poi sottovoce, nero, dice. Marrone bruciato, ribadisce Xenia, e pensa che è rimasto poco tempo. Fra poco dovrà preparare la cena e deve ancora controllare le ultime righe dell'articolo che ha scritto per una rivista letteraria. Nero, si infuria Xeniuska e si tira vicino Mishka, scompigliando tutto l'ordine degli oggetti. Con l'orso in braccio scivola giù dalle gambe di sua madre, va a ripararsi sotto il tavolo per non vedere più niente. Marrone bruciato. La voce di sua madre la raggiunge anche lì, nel suo rifugio. Xeniuska stringe forte le mani sulle orecchie per non sentirla più e a Mishka mormora nell'orecchio «Nero». Per la partenza imminente, Lello anticipò il controllo periodico che faceva ai suoi figli. Cuore, polmoni e fegato, l'udito e la vista, lo sviluppo delle ossa e quello delle masse muscolari. Tutto misurava e palpava minuziosamente, dandone poi conto ad Alfonsa, che trascriveva i dati su un quaderno, gli occhiali bassi sul naso, la grafia per scarso uso o trascuratezza, non molto più comprensibile di quella del marito. Per primo toccò a Mimmo e si tolsero di torno il suo scalpitare infantile. Enzo obbedì puntualmente a tutte le indicazioni e richieste. Lea, come sempre, risultò sana come un pesce. Mentre Alfonso aiutava i piccoli a rivestirsi, Enrico si stese sul lettino. La consuetudine gli rendeva tollerabile l'intrusione e la nudità, ma c'era qualche fatica nuova. Una piccola macchia rigida sulle braghette, un incrociarsi di sguardi fra i genitori. Enrico volta la testa verso il muro, c'è un silenzio che non gli è facile sopportare. Ad ogni visita Alfonso ha in un angolo della mente Settimio, le sue mani brancicanti, i calzoni che gli cuciono larghi per coprire il rigonfio ossessivo. Ogni irregolarità le ripropone interrogativi e paure. E fra i Pontecorvo anche, il briciolo di pazzia che è di tutti non sempre si è fatto divertimento e creazione come in Pellegrino. Il vuoto di paura allo stomaco è lo stesso di quando sorella maggiore aveva la responsabilità di Giacomo, più piccolo di lei e imprevedibile nei giochi. Si appendeva fuori dal davanzale della finestra alta da terra e poi la chiamava, solo per mostrarle la forza delle dita nella presa. E lei lo chiamava piano, Giacomino, perché per l'urto della voce non avesse a lasciarsi andare. Zitto e delicato, Lello soppesa, verifica, anche lui senza accorgersene, trattiene il respiro, appena appena. «Vammi a prendere il vaccino», dice ad Alfonso, e lei va. Poche domande precise, fra uomini Enrico ha meno ritegno a rispondere. Alfonso torna con quel che serve, Enrico, seduto sul lettino, affronta con il dovuto stoicismo il segno, il terzo, che suo padre gli marca sul braccio, una garza, un cerotto. Enrico può tornarsene nella sua stanza. Alfonso riordina, Lello ripone lo stetoscopio, tutte le membrucce in regola, le dice. Con i bauli già in viaggio verso Forte dei Marmi, per vincere l'irrequietezza delle ultime giornate romane, Alfonso organizzò una merenda. Bibite, biscotti e gelati. Un pomeriggio da trascorrere insieme finché la sera non avesse beneficato la città con il ponentino. Seduto all'ombra sulla poltrona di vimini, Pellegrino si asciugava il sudore con un gran fazzoletto bianco. Intorno gli si muovevano figlie e figli, generi e nuore, e i nipoti. quella tribù di ragazzi con l'argento vivo addosso che continuavano a scapicollarsi su e giù da muretti e scale, rossi e sudati sotto il sole eppure miracolosamente esenti da fatica. L'energia che avevano dentro pareva di toccarla e avviarla su canali predeterminati sembrava impossibile. Il gioco dei regni, proibito dai grandi perché fonte di baruffe troppo frequenti ed accese, continuava sotterraneo. A bassa voce si mormoravano parole come tiranno o repubblica e perfino proletariato. Il tribunale riunito all'intreccio dei tralci del glicine comminava pene esemplari mentre i membri del direttorio, ammucchiati l'uno sull'altro sotto il tavolo di marmo e ghisa, disquisivano di libero commercio e proprietà del territorio. Ma il caldo, la fatica, entravano quel giorno anche nei regni, con una voglia cattiva di esclusione, di un capro espiatorio su cui caricare il nervosismo di tutti. E già quella mattina il giornale era uscito in un titolo di prima pagina con la notizia che mai e poi mai il cugino Paolo Milano sarebbe stato ammesso nei regni. E prendersela con gli assenti era ancora un modo per mantenere la pace, benché le tracce degli esclusi rimanessero poi per sempre dolorose e liberatorie. Troppo sfibrati per intervenire, i grandi facevano finta di non capire, evitando così di doversi impegnare in controlli occhiuti o in reprimende di scarsa credibilità. A loro volta discutevano, e non sempre con pacatezza, dei problemi nuovi e delle rivendicazioni mai prima udite che agitavano in quello scorcio d'estate le fabbriche fino ad allora tranquille di Pisa e della Toscana. Dal glicine qualcuno emigrò verso le piante di limoni. Dal tavolo di marmo altri sgusciarono via a quattro zampe per il gioco dell'omnibus. Nuove strade da percorrere, monumenti personali da valorizzare, inventarsi una città a misura su se stessi e dei propri sogni. Immaginarono negozi anche, e industrie e fabbriche, e sulle gerarchie che le governavano Pellegrino avrebbe avuto probabilmente a che ridire. Ma in quel momento anche lui, innervosito dal caldo e dal rumore, badava soltanto alle apparenze. Come uno stormo i ragazzi si raggrumavano in un gruppo e poi subito si disperdevano per formarne un altro con componenti diversi, forse un diverso capo, un'opera continua di aggregazione e disgregazione che stancava gli occhi. Soltanto Mimmo, così piccolo, se ne stava in disparte, fermo. Aveva imparato a leggere da poco e ora ostentava la nuova abilità in pieno sole, seduto alla turca sul lastricato bollente del terrazzo. Il moto perpetuo degli altri si coagulò ad un tratto nello sfottò. Cominciarono a canzonarlo e volevano togliergli il libro. Allacciati in un giro tondo, cominciarono a caracollargli intorno. Con gli occhi lucidi di lacrime, Mimmo stringeva al petto il suo libro, ostinato. Il giro tondo andava stringendoglisi addosso. L'impeto forzò la catena nel punto più debole e poté uscirne. Corse via in cerca di scampo e si arrampicò come un gatto sulla scaletta di ferro. Addossato al cassone dell'acqua, minacciò dall'alto chi tentava di seguirlo. Un assedio di pochi secondi. Poi Alfonso fece gli occhiacci e Mimmo fu lasciato alla sua libertà. Enzo non si rassegnava alla distanza. Cercò di blandire il fratello. Nelle trattative che volle intavolare lo chiamò Emilio, sapendo che ci teneva. Era il modo per riconoscerlo grande come gli altri. Tentò di coinvolgerlo in altri giochi, ma qualunque fosse l'offerta, la risposta non mutava. «Io devo leggere!» Con degnazione Enrico, forte di molti romanzi, ordinò che non gli dessero più spago. Privato di persecuzioni, ma anche di profferte, Mimmo affondò la faccia nel libro perché non vedessero che piangeva. Però i singhiozzi gli incrinavano le spalle minute. Il cassone dell'acqua era un compagno umido e muto. Finimola, che arrivava con le bibite, si avviò a consolarlo. Ad Alfonso bastò un gesto quasi invisibile per bloccarla. I suoi figli dovevano imparare ad affrontare fino in fondo le conseguenze delle proprie scelte. Improvvisamente stanchi, i ragazzi presero a ciondolare, rifiutando per noia i giochi che Alfonso andava proponendo. Ne ebbe miglior sorte Ermelinda, che suggerì sciarade viventi e indovinelli. Richiamati dalle donne, gli uomini interruppero le loro discussioni, perfino grati. Nessuno in fondo aveva voglia di appesantire l'afa con passionalità e discordie. Ancora Pellegrino si asciugò il sudore, passò il dito dentro il colletto rigido per darsi sollievo, poi a voce non alta ma con l'autorità consueta annunciò che avrebbe raccontato una storia. Calamitati dal rispetto, i ragazzi gli fecero corona, chi seduto per terra, chi su un cuscino, chi su una panchetta, e anche Mimmo dall'alto della scala ascoltò. «La storia di Elisha ben Avuya, l'avete mai sentita?» chiese Pellegrino. Ci furono sussurri, qualcuno si aggiustò sul sedile, il vecchio avvolse in un'occhiata circolare i ragazzi e cominciò a raccontare. Elisha ben Avuya era un grande sapiente, così grande che pensò di potersi inoltrare tutto solo nei sentieri dello studio. Privo di compagnia e di contraddittorio, a furia di dedicarsi alle speculazioni filosofiche più eccelse, perse la via della saggezza, si smarrì. Non impazzì, ma si trasformò radicalmente, in maniera così visibile agli occhi di tutti che i nostri rabbini lo chiamarono, da quel momento in poi, Aher, l'altro. Elisha infranse molte leggi della comunità e così facendo se ne pose al di fuori. I parenti presero a scansarlo, i concittadini sussurravano di suoi rapporti poco chiari con i romani che occupavano la Palestina. Solo Rabbi Meir, che era stato suo allievo, serbava in cuore e sulla bocca ammirazione, affetto e stima per quell'uomo che era ai suoi occhi più che un malvagio, un infelice. Un sabato Rabbi Meir stava discutendo di Torah con i suoi allievi quando qualcuno venne a dirgli che Elisha dava scandalo sulla piazza del mercato. Nel giorno del riposo e della meditazione, davanti agli occhi di tutti, Elisha, come se niente fosse, se ne andava a cavallo. Subito Rabbi Meir si precipitò presso colui che era stato il suo maestro per dissuaderlo da quella che appariva una provocazione bella e buona, giacché così facendo Elisha non solo infrangeva una mitzvah, ma obbligava a contravvenire alle regole anche il cavallo che, poveretto lui, davvero non ne aveva colpa. Appena vide Meir, subito Elisha lo interrogò su quale passo della Torah stesse commentando quando era stato interrotto, e l'altro rispose: «Non c'è pace, disse l'Eterno, per i malvagi». Allora Elisha prese a disquisirne con tale sapienza e profondità che il buon Meir, affascinato, dimenticò ogni altro problema per discuterne con lui, per attingere una volta ancora a quel pozzo inesauribile di scienza. Elisha manteneva il cavallo al passo, Meir camminava accanto a lui e intanto continuavano a ragionare, assorti in un piacere dell'intelligenza che sembrava rifarli uguali. Ma giunsero ai confini della città, alle porte che di sabato non vanno valicate. Infervorato com'era nella discussione, Meir le avrebbe oltrepassate senza accorgersene, se l'altro non lo avesse avvertito. «Siamo giunti al limite», gli disse Elisha. «Io lo supererò e anche tu potrai fare altrettanto, ma solo se lo deciderai in piena coscienza, non per caso o per distrazione». A quelle parole Meir si riscosse e, ligio alle regole, si fermò. A labbra strette Elisha spronò il cavallo e senza un cenno di saluto si allontanò al galoppo in una nuvola di polvere. E Rabbi Meir, per il grande affetto che gli portava, continuò a chiedersi ancora e ancora e ancora se cavalcasse davvero fuori dalle vie dell'ebraismo quell'uomo sapiente e solo che portava tanto incise dentro di sé le norme da poterle ricordare agli altri, da indurli a rispettarle quando la siepe che protegge la legge appariva ai suoi occhi incerta o indebolita o dimenticata. I bambini si agitavano sui loro sedili scontenti, chiesero del cavallo, delle mura, delle battaglie coi romani, di cosa si vendeva in quel mercato e a che prezzo. Stanco, vecchio, Pellegrino li lasciò perdersi e scontrarsi nei mille rivoli dell'avventura, infastidito da quella loro inesausta passione per il concreto e per il presente, che in quel momento avrebbe dimenticato volentieri. Stretto al suo muro umido, stoico nel rifiuto persistente di gelati e bibite, Mimmo restò vicino al cassone fino a sera, quando, andati via i cugini, venne l'ora di andare a letto. Allora Alfonso lo chiamò ed era un ordine, così lui poté finalmente liberarsi dalla decisione che aveva preso. Nelle frasi che Enrico ed Enzo si scambiarono, nei sussurri che attraversarono poi il buio, nell'alfabeto morse che batterono sulle testiere dei letti, c'era dispetto e ammirazione per quella determinazione cocciuta e sofferenza per una cesura già senza appello. Un fremito dentro, una domanda, le parole, una passione condivisa che aveva fino a quel momento cementato i rapporti fra i fratelli, sarebbero state nelle mani di Mimmo un'arma? Pensieri come mosche scacciati via con un gesto della mano. Il fresco delle lenzuola di lino, gli sbadigli, una stanchezza calda e infantile li consegnava al teatro dei materassai, alla pace grave del sonno. Protetti dal buio ancora si sentirono forti, Enrico ed Enzo, grandi più di Mimmo e più esperti. Alla fine si addormentarono convinti di poter impegnare anche lui, ancora e sempre, nei regni e nella vita. Al motto dei moschettieri, uno per tutti, tutti per uno. Baby.